e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno Deborah e buongiorno a tutti voi. Oggi Deborah, noi siamo separate, tu negli studi di Via Monterosa e io qui a Roma mi con lasci... Alessandro in regia, sì, che mi tratta come una regina, mi manda anche dei baci e io sono felice, guarda. Allora, la prossima volta devi venire anche tu. Non vorrei invogliare Carmelo Lauricella a fare altrettanto perché qua abbiamo a che fare con persone sposate, no, però devo dirti che lui, allora, a parte che sento un eco, vorrei chiedere intanto ai ragazzi se sistemano, ecco, la qualità del collegamento a distanza fra me e la mia socia. Però Carmelo mi ha allestito tutto il programma sul monitor con il quale io potrò vederti tra un po', quindi verificherò se sei davvero a Roma, se mi stai facendo il collegamento magari dalle Maldive o da qualche altra parte. Pensa che bello. E intanto, oltre a salutare i nostri amici che ci stanno ascoltando, vogliamo anche salutare il mezzo milione di studenti che sono alle prese con la prima prova della maturità 2016, insomma facciamo il tifo per loro. Assolutamente, un bacio a tutti. Le previsioni della vigilia sono state rispettate, un brano di eco per l'analisi del testo e le donne al voto nel 46 per il tema storico, il rapporto tra padre e figlio in arte e letteratura, il PIL è la misura di tutto per quello economico, uno sul valore del paesaggio e l'ultimo titolo l'uomo e l'avventura dello spazio per quello scientifico. Deborah, immagino quello che avresti scelto tu. Che cosa immagini? Sentiamo. Io penserei il PIL è la misura di tutto. Sbagliato, perché io invece avrei scelto, esatto, l'avventura nello spazio, perché, e qua sveliamo tutti gli altarini, io sono nata nell'anno in cui l'uomo è sbarcato per la prima volta sulla Luna. Quindi se tu pensavi al PIL, invece sei andata in errore, perché io invece mi occupo di questi viaggi interplanetari. Sono sempre una sorpresa, no? Sbagliamo, eccoci, a pensare che sei una ragazza. La grazie, nostra ragazza di denari. Allora, cara la mia donna di cuore, invece adesso andiamo alla rassegna stampa e vediamo se ci riserva qualche sorpresa. E per la terza giornata consecutiva la nostra rassegna stampa monotematica quest'oggi, perché da lunedì vi avevamo promesso anche noi il countdown verso il Brexit o la Brexit, il referendum del 23 giugno con il quale il popolo britannico è chiamato a decidere se il Regno Unito debba rimanere o meno nell'Unione Europea, appunto, e abbiamo naturalmente monitorato con grande attenzione come hanno risposto a questa attesa le borse internazionali in questi giorni. Abbiamo avuto le prime due settimane di giugno molto difficili e poi da venerdì invece un recupero molto importante e molto vistoso per tutti i listini internazionali, che erano incoraggiati dai numerosi sondaggi favorevoli al remain, al rimanere appunto dell'Unione, nell'Unione Europea da parte del Regno Unito. Oggi abbiamo invece un quadro contrastato con Milano che perde lo 0,7%, Parigi positiva più 0,26%, Francoforte più 0,36%, Londra sulla parità, proprio lì statica in attesa di capire cosa fare domani. Intanto commentiamo questa giornata, l'apertura della borsa e i temi di seduta con Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, abbiamo avuto questa partenza stamattina della seduta in borsa all'insegna di nuovo del moderato ottimismo per le borse europee alla vigilia dell'atteso referendum. Dopo tre sedute chiuse in rialzo, gli investitori sembrano ancora propensi a scommettere su un fallimento della consultazione elettorale, mentre ieri abbiamo avuto anche grande attenzione per le indicazioni ancora una volta dei presidenti sia di Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che di quella europea. Da entrambe le istituzioni sono arrivate ampie rassicurazioni, perché hanno detto di essere pronte ad agire su Brexit. Allora, Di Lorenzo, che attese avete? Intanto un piccolo commento su come si è aperta questa giornata. Sì, giornata a due velocità con il listino italiano che fa un po' fatica, adesso siamo giù dello 0,80, mentre quello tedesco è in frazionale rialzo. È palpabile la tensione, ormai mancano poche ore a questo appuntamento che direi assolutamente chiave e decisivo per le sorti dei mercati, ma direi anche per le economie mondiali. Come diceva lei, i sondaggi la fanno da padrone. Consideri che oggi la parola più cercata su Google è pull Brexit. per comprendere quanto ci sia interesse intorno a, a cercare di avere un piccolo anticipo della, dei risultati. Anche se le faccio un piccolo inciso con il suo collega che è intervenuto ieri, Carlo Aloisio di Unicredit, abbiamo fatto anche un commento sul fatto che ce ne siano forse un po' troppi di questi sondaggi e a questo punto siamo anche un po' in difficoltà a giudicare quelli più attendibili o meno, chiusa parentesi, forse il mercato va in confusione anche per questo, no? Voi quali considerati quelli particolarmente appunto attendibili di Lorenzo? Io credo che guardare le quote degli scommettitori inglesi sia una cosa interessante da fare, nel senso che tipicamente, a parte diciamo pochi casi, la storia li ha premati. Il fatto che siano lì, se ci pensa, è proprio dovuto al fatto che sappiano ben quotare gli eventi. Un altro elemento secondo me interessante da guardare per comprendere la tensione è il cross, il cambio fra sterlina e dollaro, che in qualche modo dà un esatto barometro di quello che è il, diciamo, i possibili scenari. Infatti non a caso oggi siamo assolutamente a zero, ma veniamo da 5 giorni in cui la sterlina ha subito un grande apprezzamento sul dollaro americano, arrivando fino ai massimi da 5 mesi. Tanto più sale la sterlina, tanto più diciamo l'ipotesi remain aumenta e viceversa naturalmente. Quindi questo secondo me è il benchmark, il termometro più... La sterlina. Quella sterlina... Fermo restando che sconsiglio assolutamente agli investitori di come dire basare le proprie scelte di investimento su elementi tanto... Ah sì, certo, tanto come dire suscettibili. Queste scelte le lasciamo a voi trader, mettiamola così, gli investitori... Per chi lavora nel brevissimo termine può essere un'opportunità, ma per brevissimo termine intendo minuti / ore. Per chi invece debba, come dire, costruire un portafoglio, ritengo che sia più sensato aspettare l'esito del referendum e non fare una mera scommessa, perché non ho mai visto nessuno avere successo sui mercati quando... Parole sante, grazie Di Lorenzo per averle rimarcate. Allora, il numero uno della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, ieri ha sottolineato che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe avere ripercussioni significative economiche e rappresentare un rischio per la stabilità finanziaria. Sulle stesse posizioni era anche Mario Draghi, che ha precisato come la Banca Centrale Europea sia pronta ad affrontare tutte le emergenze legate all'esito del referendum. Secondo lei, che paracadute sta preparando Draghi? Ma secondo me siamo in una situazione talmente eccezionale che saranno diciamo pensate misure altrettanto eccezionali, fermo restando che tutti noi credo ci auguriamo che questo scenario, questo piano B non debba essere posto in essere. Io mi immagino un'immissione di liquidità importante e un tentato sostegno ai mercati, ma ahimè temo che qualsiasi misura sia insufficiente, perché è uno scenario talmente catastrofico, non tanto per l'esito del sondaggio, ma soprattutto per gli sviluppi. Tutti sappiamo che i mercati hanno un meccanismo di sconto delle prospettive, quindi l'incertezza su quello che potrebbe succedere dopo questo referendum è alta. Il rischio è che tanti paesi seguano quello che fa l'Inghilterra, e quindi si immagino degli scenari abbastanza catastrofici. Esatto, quindi... diciamo che lo spauracchio più forte è proprio quello del lasciare il segno e fare determinare un precedente, no? Che possa poi dare là il là ad altri paesi a fare lo stesso, cominciare le consultazioni. È la prospettiva più che la decisione, certo. Per quanto creda io, quindi siamo di fronte, io credo, a qualcosa che è talmente grande che sarà difficile da poter contenere, certo. Si possono mettere dei paletti, ma è difficile che il mercato non li rompa. Senta Di Lorenzo, un'ultima considerazione in 30 secondi, due temi che lei terrà sotto osservazione in questa giornata, a parte la sterlina naturalmente, la borsa inglese e le altre piazze finanziarie internazionali, ma proprio due temi specifici. Oggi scendono di nuovo tutti i titoli bancari a Milano, e poi che cos'altro guarderemo? Sì, io guardo Banco Popolare con grande interesse, siamo a poche ore dalla chiusura dell'aumento di capitale. Esatto, questo secondo me è il tema più caldo. E diciamo altro tema che potrebbe essere interessante è il settore delle auto. Ci sono delle news su Ferrari interessanti, potrebbe essere un tema che in caso diciamo sciagurato potrebbe fare un po' storia a sé, quindi potrebbe essere un titolo diciamo fra auto e lusso che potrebbe in qualche modo attrarre l'interesse degli investitori italiani e non, perché ovviamente Ferrari è quotata anche a Wall Street. Esatto, grazie a Pietro Di Lorenzo per essere stato con noi, amministratore unico di SOS Trader. Abbiamo fatto una piccola analisi sull'apertura della giornata finanziaria, direi che sono già un pochino stanca Nicoletta e quindi magari un riposino forse ci starebbe anche bene. Che ne dici di farlo su un futon? E potrebbe essere un'idea, vanno di moda, no? Sushi, sashimi e futon. Esatto. Senti, io ti suggerirei di provarlo nella nuova versione che va di moda in Giappone. Imbottita direi. Di banconote, di yen, notizia che abbiamo letto qualche giorno fa sul venerdì di Repubblica. I giapponesi tornano a mettere i soldi nel futon, lo dice non un produttore qualsiasi di questi materassi, ma addirittura la Banca del Giappone, che ha segnalato come i giapponesi stiano diventando sempre più propensi a nascondere i risparmi in casa piuttosto che depositarli in banca, e il taglio preferito sarebbe la banconota da 10.000 yen, scusate. E io tra l'altro ti anticipo già, Nicoletta, che partirò proprio da qui nella seconda parte della trasmissione, perché parleremo di conti di deposito. Allora, Debora, questa idea del futon imbottito è un po', no? Imbottito di yen è un po' la versione giapponese di mettere gli euro nel materasso. Esatto. No? E allora tu mi dai uno straordinario assist, vedi che anche da Roma ti uso questa parolina dalla 1000S, per parlare di futon, perché no? Se lo state utilizzando, se l'avete scelto, oppure del materasso, come lo scegliete, soprattutto come dormite, come vi alzate al mattino. Passiamo molto del nostro tempo sul materasso, perché passiamo un terzo della nostra vita dormendo, e spesso i nostri acciacchi pensiamo proprio che derivino dalle posture che assumiamo durante la notte, o perché no, dal nostro materasso. E quindi vi aspetto 800 24 00 24, ma è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. A tra poco. Cuore e denari. Imbottito di yen o di euro o nature, il materasso è uno dei nostri compagni di vita, perché su di lui passiamo un terzo della nostra vita, e come succede con i conviventi stretti, al materasso imputiamo molti dei nostri malesseri: il mal di schiena, il mal di collo, i brutti sogni. Allora, sappiamo bene quanto sia importante dormire e dormire bene, perché chi dorme bene invecchia anche meglio, ma non sempre il nostro materasso è quello giusto per noi. Allora, su che materasso dormite? Da quanto ci dormite? L'avete cambiato? Ci state pensando di farlo? Tutte queste domande oggi avranno una risposta, perché in studio abbiamo un grande specialista. Abbiamo il piacere di avere il professor Fabrizio Ponteggia, che è medico, specialista, fisiatra, docente di medicina fisica e riabilitativa all'Università degli Studi di Perugia e vicepresidente del Comitato Riabilitazione della SIGASCOT. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Sul futon lei ci ha mai dormito? No, non ancora. Non l'ha mai consigliato a nessuno dei suoi pazienti? Non ancora, lo terremo in considerazione insieme agli altri. Invece sul materasso ne sappiamo tante, professore, però chi si è trovato nelle condizioni di dover cambiare il materasso sa per esperienza che l'offerta è ampissima e la scelta è abbastanza difficile, no? Allora, da che cosa partiamo, professore? Dalle caratteristiche del materasso o dalle caratteristiche personali e dalle nostre esigenze? E come facciamo a conciliare le une e le altre? Sì. Poi la donna di denari ci si lamenterà anche dei costi, vero Debra? Perché vabbè, devo un attimo... Se non picchiano i materassi, a meno che non trova quello con gli yen dentro, ma sono scomodi, poi tocca comprare un altro giusto. Dunque, sì, sicuramente una scelta difficile, ma da eseguire con tranquillità. Perché difficile e importante? Difficile appunto per la grande quantità e qualità dell'offerta, importante perché può influire sui sintomi e sulla qualità del riposo notturno e della salute al risveglio, della sensazione di salute al risveglio. Da eseguire con tranquillità, perché dobbiamo partire dall'assunto che il materasso in sé non provoca patologie e non aggrava patologie. Non ha colpa. Ma ha un'influenza sui sintomi, importantissima, su sintomi e qualità del riposo, ma non gli possiamo attribuire la comparsa di una malattia. Semmai l'arrivo in superficie, la presentazione, ma non provoca la malattia. Esistono non moltissimi studi in letteratura internazionale, le revisioni ci dicono che gli studi non sono di sufficiente qualità e comunque non mostrano una superiorità di un materasso rispetto all'altro, soprattutto per tre parametri: il dolore a letto, il dolore al risveglio e la disabilità globale. Sembra emergere da un articolo sul Lancet che i materassi di media durezza sono migliori di quelli molto rigidi. Su una scala da 1 a 10, un livello intermedio sembra il migliore. A proposito di rigidità, professore, c'era un tempo in cui le persone che avevano mal di schiena infilavano sotto il materasso un asse per dormire sul rigido. Sì. Adesso non si fa più, ha sbagliato, tutto cambiato. Gli studi sembrano suggerire che non è quella la strada. Non è quella la strada, no. Però ecco, l'asse può condizionare l'interfaccia rete-materasso. Gli studi si occupano soprattutto del materasso, dicevo, con una scala da 1 a 10. Che cosa tenere in considerazione? Dicevamo, intanto da quanto tempo lo possediamo. Se ci svegliamo con la sensazione di un sonno ristoratore o no, se ci svegliamo con sintomi o no, e se abbiamo avuto la possibilità di provare, almeno per qualche giorno, non in senso aneddotico per una notte, altri materassi e di verificarne l'effetto migliore, migliorativo o peggiorativo sui sintomi e sulla qualità del riposo notturno rispetto al nostro. Quindi se vado in vacanza e quindi cambio letto e al mattino mi sveglio fresco come una rosa, riposato, non sento più quei dolorini che invece caratterizzano i miei risvegli quando sono a casa mia, una lampadina dovrebbe accendersi. Possiamo prenderlo in considerazione, anche valutando però l'effetto placebo e anche l'effetto sociale, insomma, di benessere psicofisico della vacanza. Certo, della vacanza. Professore, le posizioni che assumiamo durante la notte, su cui non è che abbiamo grande margine d'azione perché uno si addormenta, ma possono in qualche modo scatenare o esacerbare alcuni problemi del nostro apparato muscolo-scheletrico e quindi magari provocare un dolore? Sì, in assoluto non c'è una posizione migliore delle altre per tutti. Diciamo che è per la singola persona, perché possono, ad esempio, alcuni tipi di posizioni possono far comparire o esacerbare delle sintomatologie, ad esempio in una sindrome da conflitto della spalla o una sindrome dell'egresso toracico. Consiglio di evitare di dormire con il braccio alto sopra la testa, ad esempio. Sì. Oppure, quindi quelli che abbracciano il cuscino e si passano soprattutto il braccio in alto a lungo non è assolutamente consigliabile. Oppure possono provocare l'aumento dei sintomi in elettrocanteriti, che sono delle patologie laterali dell'anca. Oppure aumentare la sintomatologia al risveglio delle fasciti plantari. Quindi quando noi appoggiamo il piede sentiamo. Sì. Sconsiglio di dormire di lato con le ginocchia una sull'altra, con le parti interne che si toccano. In quel caso mettere un cuscino morbido, perché anche questo può essere fonte di sintomi al risveglio. Quindi non in assoluto una posizione quindi migliore delle sono, altre. Non ci sono posizioni consigliate, ma due posizioni dobbiamo evitare. Sì. Il braccio sopra la testa, perché poi magari ci proviamo a magari togliere con terapie e trattamenti il dolore, ma non diciamo al nostro medico dove dormiamo. Sì. Quindi raccontategli anche come dormite, magari lo mettete. È compito nostro di chiederlo. Sì, però noi li aiutiamo i medici, perché ci si dà una mano e poi le due ginocchia vicine. Deborah, tu come dormi? Pancia in su, pancia in giù o laterale? Laterale di traverso. Vedi, perfetta. Sì. Attenzione alle ginocchia. Mediamente, fammi pensare, fondamentalmente sulla sinistra. Mi giro sulla sinistra. 800 24 00 24, se volete raccontarci come vi svegliate, su che cosa dormite e che cosa dice la vostra schiena al risveglio. E a proposito di risveglio, professore, si dice spesso: ti sei alzato col piede sinistro, no? Per descrivere una persona che ha l'umore per traverso. E però questo modo di dire potrebbe essere un'indicazione anche per evitare i dolori. Infatti, sì. Perché? Perché il modo in cui scendiamo dal letto è importante, perché al mattino ho capito che il nostro apparato muscolo scheletrico è in un momento molto delicato, gli basta un niente per avere poi un problema. Professore, è così? È assolutamente così, si parla moltissimo di biomeccanica e quindi dell'influenza delle forze sul nostro corpo, e quello è un momento delicato. complicatissimo, perché il corpo passa da ore in posizione sdraiata, per parlare semplicemente, a dapprima una posizione seduta e poi subito una stazione eretta, quindi viene risottoposto alla forza di gravità e la colonna soprattutto può risentirne molto. Quindi è molto importante, ad esempio, consigliare di rimanere qualche secondo seduti, e questo vale per tutte le età, assolutamente, anche allo scopo di minimizzare il rischio di sindromi vagali, che sono pericolose, cioè quelle sindromi che all'improvviso che ti gira un po' la testa e poi frum, svieni come un... Quindi qualche secondo seduti, e poi nei primi minuti del riposizionamento in stazione eretta porre ancora più attenzione a quelle norme comportamentali che sono, ad esempio, di non sollevare oggetti flettendo il busto in avanti con le ginocchia completamente distese, erette, bisogna piegarle un po', fletterle leggermente, e poi ancora più importante di non prendere oggetti lontani dal corpo, quindi con le braccia distese, ma avvicinarsi agli oggetti da afferrare. Lei quanto ci mette ad alzarsi dal letto, professore, che immagino che seguirà tutte queste cose? Sì, ma no, basta pochissimo, soltanto veramente? L'abitudine. Perché sennò uno dice mamma. No, allora, ho delle domande per lei. Dormire senza cuscino ha delle controindicazioni, ci scrive Andrea? Dormire senza cuscino può avere delle controindicazioni a seconda della posizione. Ad esempio, se uno dorme in posizione prona, cioè a pancia sotto, può anche andar bene. Dormendo in posizione supina, l'ideale è che la testa e gli occhi siano paralleli al soffitto. Quindi dormendo senza cuscino in posizione supina, cioè a pancia sopra, la testa può andare indietro e questo può creare sintomi o... Allora, materasso, cuscino e schiena subito dopo il GR, la ricerca di un futon pieno di yen. Come si trasforma una buona idea in un progetto di successo? Con l'innovazione, la creatività e la condivisione. Il sabato mattina di Radio 24 diventa la voce del crowdfunding con Crowd Me Up, in collaborazione con Appila e Back to Work 24, una rubrica dedicata alla presentazione delle buone idee per trovare buoni finanziatori. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, tutti i sabati alle 9.30 all'interno di Si Può Fare con Alessio Maurizi su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Cuore e denari. Test the spalla baby, 1, 2, 3. Test the spalla baby, 1, 2, 3. Test the spalla, test the spalla, test the spalla baby, 1, 2, 3, baby. 1, 2, 3. Testa, spalla, collo, schiena. Come stanno quando vi alzate dal letto? Che cosa sentite? Vi sentite un po' stropicciati, dolenti? Sentite qualcosa che vi ferma, che vi impedisce il movimento? Un po' arrugginiti? Potrebbe essere colpa del materasso? 800 24 00 24, ne stiamo parlando oggi dagli studi di Roma col professor Fabrizio Ponteggia, medico, fisiatra, docente di medicina fisica e riabilitativa all'Università degli Studi di Perugia e vicepresidente del Comitato Riabilitazione della SIGASCOT. Lei, professore, ci ha detto che il materasso non può far male alla nostra schiena, potrebbe esacerbare o far saltare fuori delle problematiche, sì, che possono derivare magari da posture scorrette che teniamo durante il giorno o quant'altro. Quindi il materasso, vogliamo dire, assolto? Assolto in parte, nel senso perché anche i sintomi sono importanti per la qualità della vita, certo. Quindi se noi riduciamo i sintomi o li eliminiamo, possiamo poi anche eliminare dei compensi, delle posture scorrette, magari antalgiche, e quindi iniziare il recupero e la riabilitazione della patologia. Quindi ha sicuramente un ruolo importantissimo, però dobbiamo dare anche un messaggio di tranquillità, cioè certo, non è che può provocare da zero delle patologie. Intanto abbiamo gli interventi dei nostri ascoltatori. Vi anticipo che parleremo anche del cuscino, perché molti dei nostri ascoltatori ci chiedono se c'è un'altezza ideale del cuscino, come meglio scegliere, se vanno bene quelli a rullo, se si soffre di cervicale, che fare, come Giovanni che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Senta, buongiorno, io ho un problema, ho questa cervicale che mi tormenta spesso. E niente, io volevo sapere dal dottore se devo dormire con due cuscini oppure devo trovare altre posizioni, perché non riesco a prendere il sonno, cioè proprio totalmente. Volevo sapere se devo usare i due cuscini oppure devo trovare altre posizioni. Grazie Giovanni, professore. Grazie per il quesito, è molto interessante perché mi dà l'occasione di puntualizzare una fase importante del nostro lavoro, che è quella della diagnosi differenziale. Noi, in base all'anamnesi, cioè in base a quanto ci racconta il paziente, in base all'esame obiettivo, che è una visita accurata, ed eventualmente dopo di aver preso questi elementi alla decisione se prescrivere o meno dell'imaging, cioè quindi degli accertamenti strumentali, ulteriori, una radiografia, una risonanza, una TC o un'elettromiografia. Però a volte basta anche dopo il colpo la visita, clinico. Ma appunto eventualmente, perché quasi sempre basta l'esame obiettivo all'inizio. Dicevo, avendo capito qual è il motivo del dolore del paziente, allora possiamo anche dare dei suggerimenti più appropriati, perché sennò si dice agiamo in base in modo sintomatico, cioè andiamo soltanto a cercare di eliminare il dolore senza sapere quali sono le cause, che potrebbero essere cause muscolari, ossee, di carattere neuropatico, quindi a partire dal midollo e dalle radici cervicali. Quindi una volta precisato questo, quindi è importantissimo capire il perché del dolore. E chi fa diagnosi di questi problemi? Perché gli specialisti che si occupano dell'apparato muscolo-scheletrico ce ne sono diversi: c'è il fisiatra, il reumatologo e l'ortopedico. Sì. E c'è il medico di medicina generale, anche, che è il filtro fondamentale, allora, che conosce la storia del paziente. Sul medico di medicina generale è il nostro tassello, il nostro fondamentale. Noi prima andiamo da lui, ma per un'analisi, per una diagnosi differenziale, qual è lo specialista di riferimento? Si va dall'ortopedico, lei è fisiatra, però ci sono anche ortopedici e reumatologi, sono figure diciamo che le competenze di base le hanno tutti e tre questi specialisti, perché ci sono moltissime patologie dell'apparato muscoloscheletrico che si sovrappongono come capacità di diagnosi differenziale. Mi dà l'occasione di dire un'altra cosa: ad esempio, quando abbiamo più sintomatologia serale, è più probabile che sia una patologia da sovraccarico, quindi un'artrosi, per semplificare. Quando abbiamo una patologia più, una sintomatologia più a risveglio, una rigidità, un dolore che stiamo peggio al risveglio di quando siamo andati a dormire, è quello che ci dice il paziente, dobbiamo anche pensare a una patologia infiammatoria, quindi più da reumatologo. Quindi ecco perché l'anamnesi è fondamentale. Ma lei già ci ha dato delle indicazioni, ma ci ha lasciato in sospeso con questo cuscino. Esattamente, quindi una volta capito anche qual è il morfotipo del paziente, quindi l'altezza del collo, se il paziente ha una rettilineizzazione, cioè ha la testa molto davanti al corpo, al tronco, oppure è ben allineato, si sceglie il cuscino. Sulla base di quel suggerimento che ho dato prima, in genere, ad esempio, se dorme supino, non è tanto questione di uno, due, tre cuscini o più morbidi o meno morbidi, ma di mantenere il capo allineato con il tronco. E chiaramente però, deve essere una cosa importantissima: se la posizione è giusta, il paziente ha meno sintomi. Noi non possiamo dire la posizione è giusta, stacci anche se hai sintomi. Quindi il corpo ci trasmette dei messaggi importanti. Quindi la comodità. È un buon parametro. Se noi siamo comodi, molto probabilmente la posizione è giusta per noi. Sì, e sono anche contrario ai messaggi netti, nel senso cuscini conformati per la cervicale assolutamente sì o assolutamente no. Siccome in genere sono fatti, esistono tanti modelli, non posso parlare di tutti, ma in genere sono fatti su una media delle persone, quindi dipende dal nostro morfotipo, cioè dipende appunto dall'altezza del collo e dalla nostra curva fisiologica, se è una lordosi cervicale normale o meno. Se siamo fortunati che ci combiniamo nella media di progettazione di quell'articolo, ci stiamo benissimo, altrimenti può essere peggiorativo. Deborah, cuscini imbottiti di yen, euro, eccetera, esatto, non ne hai ancora trovati? Alla modalità di Paperon de Paperoni, che tanto sicuramente li metteva anche nel materasso, oltre che nel suo ricco forziere, no? Magari. Allora, dove vuoi andare? Guarda, ero così un po' incuriosita. Sull'uovo? No, volevo sentire il suggerimento di Isabella dall'Aquila. Ah, e poi passiamo all'uovo però, all'uovo da Napoli. Ah, sì, Isabella. Isabella, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, io ho 66 anni, non ho mai avuto alcun problema scheletro muscolare. Dormo perfetto nello stesso materasso morbido. Da quanti anni? Da quasi 50 anni. Mio quindi, marito insomma... ha un materasso duro e quindi io non riesco. Non so se è un caso raro, perché si dice sempre che bisogna dormire su qualcosa di duro. Ma non si dice più, Isabella, ormai, ormai si sono rimangiati un po', verso ecco, il centro, ecco, verso io media. Dico rimangiati e invece il professore dice ammorbiditi. Allora, intanto complimenti perché Isabella, 40 anni e 50 di matrimonio mi sembra. E sarà il materasso. Con il suo matrimonio, anche con il suo materasso esatto. Ha un matrimonio di quelli... Sì, diciamo che risponde a quello che dicevamo all'inizio sulle caratteristiche da tenere in considerazione nella scelta. Certo. Lei potrebbe prendere in considerazione il cambio sulla base della durata, ma se ci sta bene non cambierei assolutamente il modello, insomma la... Senta, mi è venuta, allora, l'intervento della nostra amica mi ha suggerito una domanda. Materasso matrimoniale, il marito pesa un bel peso di quelli maxi e la moglie un peso piuma, e quindi ecco, è meglio nel materasso matrimoniale il materasso intero o è da preferire due materassi singoli avvicinati? Ma dipende dalle, appunto dalle caratteristiche delle persone relativamente al materasso, cioè se dormono bene sullo stesso materasso possono prendere il matrimoniale, altrimenti è consigliato separarlo, altrimenti... Due singoli. Sì. Gaetano, buongiorno da Napoli. Buongiorno. Che ha una tecnica, Gaetano. Buongiorno, il segreto. Sì, la sentiamo bene. Gaetano. Ah, buongiorno, senta, volevo un'informazione dal dottore. Io la mattina quando mi sveglio mi sento un po' attaccato, legato, bloccato. Però se faccio la posizione del duovo per 30 secondi e poi dopo che mi sono alzato, mi stendo un po' la schiena abbassandomi in avanti e toccandomi le punte dei piedi, mi sento meglio. Faccio bene o faccio male? Allora, Gaetano con la posizione dell'uovo. Professore, lei l'aveva già sentita questa posizione? Sì, assolutamente. È una domanda che mi consente di puntualizzare appunto il posizionamento degli esercizi nella giornata. Sì. Normalmente l'ideale, parlo in generale, naturalmente senza conoscere il singolo paziente o la singola persona, l'ideale è eseguire degli esercizi di mobilizzazione, di riattivazione al risveglio e degli esercizi di scarico, delle posizioni di scarico nella seconda parte della giornata. Adesso però me li spiega come un esempio pratico, perché sì, allora, sennò io non un esercizio capisco. Classico di riattivazione, di mobilizzazione, è l'esercizio del gatto, cioè la persona si mette in posizione quadrupedica e inizia a fare dei basculamenti della colonna dorsolombare e del bacino. La posizione classica di scarico è quella a L, cioè il paziente supino con le anche a 90 gradi, le ginocchia a 90 gradi e le gambe appoggiate su una seggiola con un cuscino sopra, ad esempio. Quindi mobilizzazione e riattivazione al mattino, scarico nel tardo pomeriggio. La posizione dell'uovo... Nel tardo pomeriggio, che prima di andare a letto, perché o se sera, io vado certo. Da Debora e faccio le posizioni Sentiamo. Di scarico, Debora, potremmo farlo. Si può fare anche ormai la nostra volte. Confidenza è tale, per cui e sì. Facciamo anche dei piccoli video. Un po' di stretching. E quindi la posizione dell'uovo, bisogna vedere le modalità e appunto la durata di esecuzione, perché il paziente ci si troverà sicuramente meglio, perché oltre a scaricarsi esercita un'azione di allungamento e quindi di comunque di riattivazione. Perché insomma la posizione dell'uovo, per descriverla, è ci stendiamo, poi tiriamo sulle gambe, sì, le abbracciamo, sì, un po' una sì, posizione... Sì, appunto è a metà tra lo scarico e l'allungamento. Apposta parlavo di modalità di esecuzione e di tempo. Però volevo puntualizzare una cosa, perché è al confine con le norme comportamentali. Sì. Molta attenzione nell'eseguire invece l'altro movimento, quello di flettersi in avanti fino a toccare le punte senza piegare le ginocchia, perché può essere un movimento pericoloso, un movimento che se noi ruotiamo il corpo si avvicina molto alla nostra manovra di Lasegge, che è una manovra di stiramento radicolare, quindi lo eseguirei con molta cautela o addirittura non lo eseguirei. Allora, rispondiamo ad un ascoltatore che ci manda un messaggio. Dorme da anni su due materassi di lana. Viaggia molto e ha occasioni di confronto. Non c'è niente che mi faccia sentire così riposato. Cosa ne dice il vostro esperto? Il materasso di lana o ci sono delle il materiale del materasso può fare la differenza? Dico che se la persona si trova bene di non cambiare. Allora, sì, squadra che vince non si cambia. Professore, allora, questa è anche un'occasione per parlare della nostra schiena. L'abbiamo accennato spesso, la nostra schiena si lamenta al mattino. Abbiamo detto che il nostro apparato muscolo-scheletrico al mattino vive un momento di grande delicatezza, fragilità, e quindi lei ha suggerito di fare questi esercizi. Mi piace paragonare la nostra colonna vertebrale, no? Che è questo straordinario, direi, esempio di ingegneria, e mi piacerebbe percorrerla su e giù con un ascensore, fermarmi in dei punti strategici. Inizierei dalla terrazza, la cervicale, che dà tanti problemi alle persone, devo dire, di ogni età. Ci può dare delle indicazioni molto semplici per prevenire disturbi? Sappiamo che le cause della cervicale possono scatenare un dolore cervicale, possono essere tante, come lei ha anticipato. È importante la diagnosi differenziale, come suggerisce un gentile ascoltatore. Il primo tassello, cosa che noi abbiamo già suggerito, lo fa il medico di medicina generale, ma poi magari è necessario arrivare allo specialista. Professore. Sì, dicevamo, la colonna dobbiamo considerarla come un tutto unico, ma comunque diviso in tre tratti: cervicale, dorsale e lombare, con delle curve che noi chiamiamo fisiologiche, sì, cioè con un raggio di curvatura più o meno preciso, quindi con una lordosi cervicale, una cifosi dorsale e una lordosi lombare. Possiamo fare la prova del muro, no? Per prendere consapevolezza di tutte queste curve. Esattamente, la prova del muro, più che un esercizio, è un test che ci consente di valutare longitudinalmente nel tempo se miglioriamo o peggioriamo. Ad esempio, la distanza occipite muro, cioè quanto la testa sta distante dal muro, è un'importantissima misura in reumatologia per valutare alcune patologie importanti come le spondiliti o le artriti sieronegative. Perché la testa deve appoggiarsi al muro. La testa dovrebbe essere sopra il tronco, sì, sopra il tronco. Poi, se no è una rettilinizzazione o una inversione. Per quindi, parlare un poi termine. Andiamo giù, e quindi gli altri punti di contatto oltre alla testa quali dovrebbero essere? La colonna dorsale è a contatto, mentre a livello lombare, se abbiamo una corretta lordosi, sì, non dovremmo toccare, se no abbiamo una rettilinizzazione della lordosi. Perché sicuramente ci sono poi delle indagini, come le ha anticipato, che permettono di fare delle diagnosi più precise, ma la visita clinica è sufficiente per nella un esperto casi, a individuare, sì, i punti di fragilità della nostra schiena. Sì, assolutamente. Ci tenevo ad usare il suo paragone dell'ascensore, perché è abbastanza suggestivo. Un ascensore in un palazzo curvo, perché chi ci ha progettato e creato, se avesse fatto un grattacielo, praticamente avrebbe sottoposto le vertebre lombari, le ultime, a tutto il carico di tutta la colonna praticamente. Invece questo raggio di curvatura continuo consente di ripartire i carichi. Quando perdiamo queste curve fisiologiche, ecco che troppo carico arriva sulle ultime vertebre, sugli ultimi dischi. Questo è stato causato anche dall'evoluzione, quindi certo, dal passaggio dalla posizione quadrupedica alla stazione eretta, e poi per noi, cioè, in questa epoca, anche dal maggior tempo passati seduti. È quello alla schiena, alla schiena, certo, fa molto male. Professore, prima di salutarci, ci dà un paio di consigli per salvare la schiena? Sì, assolutamente. L'attività fisica ideale, ad esempio. Molti pensano al nuoto. Camminare con regolarità. Il nuoto va benissimo, ma non in modo esclusivo, perché se ci pensiamo bene è un'attività che avviene non nella gravità terrestre. Okay. Per cui il nuoto lo possiamo fare, ma non deve essere insieme. Esclusivo. Il camminare sarebbe l'ideale. Camminare è l'ideale, il materasso possiamo scegliere quello che ci piace, quello in cui stiamo comodi. Norme, ricordiamo, al mattino facciamo un po' di stretching, ci allunghiamo, un po' facciamo come i gatti, riattivazione, mentre alla sera, prima scarico, di andare a dormire. Dobbiamo essere bravi a fare tutte queste cose. Intanto la ringraziamo, professore, perché è stato davvero prezioso. Deborah, ma sì, quante cose dobbiamo fare al mamma giorno? Mamma mia, guarda, se dobbiamo e così, così esatto, e mangia cosà. E poi appena ricordati, ci sediamo sul materasso, concentrazione per mettersi giù giusti. No, tra l'altro hai visto un'ascoltatrice che ha contestato la mia postura sinistra, perché sì, dice perché attenzione, dice che può far male al cuore. Ma il tuo prof la che ne pensa, Maila, è vero? Ma io gliel'ho chiesto subito, ma mi ha detto di no. Per questo ero tranquilla. Sì, scusami, forse ero un attimo sentire lo specialista cardiologo, ma insomma. Non avverto non particolari disturbi. L'importante è non mettere vicino le ginocchia, se no mettiamo il cuscinetto. Ginocchia, oppure se c'è una dolenzia laterale sull'anca, di non insistere da quel lato, cambiare lato. Però lì bisogna essere difesa naturale. Se ti fa male ti sposti. Esatto. Bene, Deborah. Allora abbiamo, possiamo salutare il prof. Non abbiamo analizzato il materasso pieno di banconote e monetine, che tipo di problemi potrebbe dare alla nostra schiena. Sicuramente per qualcuno potrebbe essere una scelta, perché teme problemi invece di portafoglio più che di postura, e però insomma analizzeremo anche questi orientamenti. E allora sì, direi di trasferirci un pochino in Giappone adesso. Andiamo. JP Morgan Asset Management vi presenta Cuore e denari. Shindeita asa ni tomurai no yuki ga. Immagina Nicoletta dormire su un letto pieno di yen, materasso ricolmo di yen, con questa musica. Secondo te concilia? Potrebbe conciliare il sonno. Però allora, è carina questa musica. Sì, sarà un po'. Ci siamo trasferiti in Giappone, come dicevo prima. Noi siamo voluti partire da questa notizia che è stata pubblicata da Il Venerdì di Repubblica il 17 giugno. I giapponesi tornano a mettere i soldi nel futon. Lo ha detto la Banca del Giappone, che ha segnalato come i giapponesi stiano diventando sempre più propensi a nascondere i risparmi in casa piuttosto che depositarli in banca. Il taglio preferito? La banca no. Nota da 10.000 yen. E tra l'altro volevo lanciare qua un domandone per i nostri ascoltatori, sempre per metterli alla prova e vedere se si guadagnano uno dei nostri libri che generalmente siamo così in grado di regalare. Anzi, al primo che ci dà la risposta corretta arriva in omaggio l'ultimo numero dell'Economia per la Famiglia, che è in edicola oggi con Il Sole 24 Ore. Volevo chiedere agli ascoltatori con il nostro domandone se sanno quanto valgono in euro 10.000 yen. Io non l'ho detto, quindi adesso li faccio mettere alla ricerca. Allora, il ripostiglio preferito per questi 10.000 yen in contanti, una volta portati via dalla banca, sarebbe proprio il futon, il materasso tradizionale giapponese che si arrotola la mattina, si srotola la sera, per depositarlo sul tatami che è il pavimento. No? Li stropicci un po' se li metti lì dentro. Ma infatti io proprio penso che la comodità di fare tutta questa operazione non ce ne sia tanto. Però vabbè. E contenti loro, Nicoletta, che cosa vuoi che ti dica? Forse metterli nel materasso non è la migliore idea nel mondo, però tante persone, con tutta la crisi finanziaria che abbiamo visto negli ultimi tempi, ci hanno candidamente confessato di avere ritirato tutti i soldi in banca e li hanno portati a casa. Come li stiano conservando non lo sappiamo, forse avranno delle casseforti, li avranno messi in cantina chiusi in valigia, o davvero li avranno messi nel materasso ben cuciti dentro. Occhio che nel futon non c'è tanto spazio, sempre meglio un bel materasso tradizionale. Comunque, scherzi a parte, non ci sembrano ragionamenti molto sensati, no? Se proprio i mercati finanziari, le azioni, le obbligazioni, le valute, i fondi di investimento non fanno per noi, allora forse è meglio valutare i cosiddetti strumenti di parcheggio della liquidità. E così ci è sembrato utile stamattina fare un nuovo confronto sui rendimenti dei conti di deposito, che sono una sorta di materasso che però è sempre la banca a custodire. Non sono strumenti finanziari al 100%, quindi hanno rappresentato negli ultimi anni una scelta molto gettonata da parte di quei risparmiatori che cercavano solo sicurezza. I rendimenti però sono scesi molto, tutto sommato però ancora continuano a battere i titoli di Stato di pari scadenze. E allora, per raccontare un po' come si sta muovendo questo mondo e le offerte anche più interessanti sul mercato, abbiamo chiamato uno dei più noti comparatori di conti correnti, e ringrazio per essere qui con noi negli studi di Milano Manfredi Urciuoli, responsabile comunicazione di confrontaconti.it. Buongiorno. Buongiorno. Che tra l'altro, Nicoletto, ho scoperto essere anche un mio quasi conterraneo, perché no, è umbro. Sì. Ma quanti sono? Vabbè, adesso se ti allarghi anche all'Umbria, marchigiana va bene, umbra. Quando anche non ci sei, laziale. Ne approfitto subito. Esatto. Vabbè. Allora, 800 24 00 24, numero verde per i nostri ascoltatori, sia per appunto rispondere al domandone quanto valgono in euro 10.000 yen, ma soprattutto se avete delle domande sul tema conto di deposito, siamo qua pronti a rispondervi. Allora, dottor Urciuoli, secondo le vostre rilevazioni, perché voi ne fate abbastanza ricorrentemente, insomma, sono ancora molti gli italiani che parcheggiano la propria liquidità nei conti di deposito in attesa che questi mercati finanziari si stabilizzino. Con la Brexit qua stiamo andando sul lotto volante, ma in realtà ci stiamo andando da anni, oserei dire. In realtà no, quello che stiamo osservando negli ultimi giorni, proprio in corrispondenza di questi dei tumulti dei mercati finanziari, non è un aumento così elevato della domanda dei conti deposito. Nel corso di quest'anno c'è stato un certo aumento rispetto all'anno precedente, però direi nell'ultimissimo periodo, in corrispondenza dell'ultimo mese, nessun aumento particolarmente vistoso evidente. Quindi niente a che vedere con quel boom che invece avevamo visto per esempio a cavallo fra il 2008 e il 2009, quando la crisi finanziaria mordeva in maniera pesante, il periodo di Lehman Brothers, tutti scappavano dai prodotti appunto di investimento tradizionali, le banche non riuscivano a raccogliere denaro sul mercato e quindi dovevano chiamare i propri clienti con offerte allettanti. Esatto, però in quel periodo c'erano anche dei tassi molto più elevati per i conti di deposito, quindi era più naturale cercare quel rifugio, e non c'era ancora il bail-in. Esatto, e adesso apriremo anche questa parentesi. E i rendimenti, lei ha toccato questo argomento, sta continuando lenta ma inarrestabile appunto questa discesa dei rendimenti dei conti di deposito offerti dalle banche italiane, e questo per tante ragioni, sia perché la Banca Centrale Europea continua ad intervenire, continua a ridurre i tassi di interesse ufficiali, continua a fare queste manovre straordinarie di immissione di liquidità sul mercato, l'ultima importantissima è il quantitative easing, e quindi sta riducendo la necessità degli istituti di credito di finanziarsi sul mercato interbancario, quindi le banche devono fare meno raccolta fra i clienti, e questo, come dicevo appunto, porta una riduzione dei rendimenti. Che range di rendimento hanno in questo momento i conti di deposito? Cosa dicono le vostre rilevazioni? In generale sono tutti sotto il 2%, le punte massime toccano il 2%. Perché scadenza però, perché vincolo? Perché poi dobbiamo ricordare che mesi, sono anche... 6 mesi, un anno o anche 2 anni. Beh, comunque è bello alto se dobbiamo fare il paragone con il titolo di Stato di pari scadenza, che è zero, direi che ancora sono più remunerativi. Addirittura il 2% ne abbiamo? Addirittura il 2%. Però dobbiamo monitorare un po' bene la qualità, diciamo, di quelle banche che offrono questo rendimento. Sì, questo è vero, però c'è sempre il fondo interbancario di tutela dei depositi che può tenerci tranquilli. Ecco, non solo, poi ci sono dei casi in cui addirittura si arriva al 2,6% per scadenze molto lunghe. Possiamo fare nomi e cognomi? Ce li ha anche o magari ce li riserviamo dopo? Sui 5 anni c'è Banca IFIS, che è un prodotto molto interessante. Allora, quanti ne confronta il vostro comparatore peraltro di conti correnti? Tanto per spiegare ai nostri ascoltatori che abbiamo un interlocutore che monitora quasi tutto il mercato, in sostanza. Una cinquantina di conti presenti sul mercato. Di conti di deposito, quindi sono questi più o meno, sono un po' di più quelli offerti dal sistema bancario italiano? Ma sono molti pochi di più, direi tutti i conti di deposito sul nostro comparatore ci sono. Certo. Allora, 800 24 00 24, torno naturalmente a segnalare il numero verde ai nostri ascoltatori che vogliono chiederci lumi sul tema conto di deposito. Intanto c'è anche chi è bravissimo a fare l'equivalenza fra yen e euro, lei era pronto su questa domanda? Assolutamente no. Neanch'io veramente, però insomma l'abbiamo poi cercata ieri questa informazione. Facciamo un piccolo vocabolario dello strumento, Manfredi Urciuoli, no? Sul funzionamento appunto del conto di deposito. Allora, esattamente che cos'è? Perché non è un conto corrente, non è un conto su cui possiamo avere l'operatività, su cui possiamo addebitare ed accreditare operazioni, è proprio un parcheggio della liquidità. Ma che caratteristiche ha il conto di deposito, oltre a questo? Di solito non presenta nessun costo per gli utenti, può esserci addebitato l'imposta di bollo, però solamente su importi sopra i 5.000 euro, e quindi è un parcheggio della liquidità senza nessun costo, e che di solito invece ha dei rendimenti piuttosto interessanti. Certo, avete un profilo anche dei sottoscrittori del conto di deposito, chi lo apprezza particolarmente? Avevo trovato un articolo carino di Repubblica di qualche mese fa che diceva: i conti di deposito hanno i capelli grigi perché il sottoscrittore ha mediamente, quello che insiste particolarmente su questo strumento, oltre i 50 anni, che non è detto che abbiano i capelli grigi, no Nicoletta? Molto di moda, per cui ci sono anche ragazzi che si tingono di grigio, perché dall'America, sì anche 35enni, 40enni, ecco, donne, per spuntare qualche buon rendimento dei conti, quindi, di deposito, vedi, non lasciatevi ingannare, si camuffano per andare in ci banca. Sono anche le tinte. Esatto, Urciuoli. In realtà è difficile rispondere, perché l'Italia è un paese di vecchi in qualche modo, la maggior parte della popolazione è vecchia ed inoltre i giovani hanno pochi soldi. Di sicuro si osserva che la maggior parte degli utenti dei conti deposito sono persone di una certa età. Gli importi sono più alti per persone di una certa età, però non è così semplice fare l'equazione. Poi si può anche immaginare, supporre che le persone più giovani magari siano un po' più avvezze al rischio, un po' più propense a rischiare. Mm-hmm. E di sicuro il conto deposito è più apprezzato dai signori, dagli over 50, dalle persone direi più mature, con più esperienza. Con più esperienza. E che importo medio riescono ad accantonare nei conti di deposito, appunto, gli italiani con più esperienza? I più esperti, quelli di una certa età, gli over 55, addirittura 50.000 euro. Mm-hmm. La media è 50.000 euro. Mediamente, overall, in generale, siamo sui 30.000 euro. Certo, sono importi in riduzione rispetto a qualche anno fa, oppure stabili, in aumento? Sono importi in aumento, mm-hmm, in costante aumento. Quindi piano magari piano escono un po' dalle borse o da che cosa, quindi per parcheggiare. O magari anzi, si accumulano, c'è anche un effetto di accumulo. Esatto, poi. O forse sono, come dire, usciti dalle obbligazioni dei titoli di Stato, molto più probabilmente, esatto, che dal mercato azionario. Allora, facciamo un punto della situazione invece sulle scadenze che possono avere. Qual è la durata massima di un conto di deposito? 5 anni, come dicevamo prima. Di solito le scadenze più gettonate sono 1 anno o 2 anni, anche 6 mesi sono abbastanza gettonati. E poi non ci dobbiamo dimenticare che esiste anche il conto deposito libero, che a fronte di questa riduzione dei tassi, dei depositi vincolati, diventa sempre più allettante. In effetti abbiamo assistito nell'ultimo periodo ad uno switch, un maggiore interesse verso i liberi a fronte di una riduzione dei vincolati. Allora, intanto, ecco, infatti c'era proprio un ascoltatore che dice, forse Carla, che forse mi hanno... Eccola qua, Carla qua, non avevo notato che me l'avessero già messa in onda. Allora Carla all'800240024 fa proprio questo paragone con i titoli di Stato. Carla, benvenuta. Buongiorno, io volevo dire, ho fatto dei depositi in banca, ma adesso non sono più convenienti in nessuna banca. Io ho 2 banche, non sono più convenienti in nessuna banca perché il tasso è praticamente quello dei bot. Ecco, uh-huh, perché non si fanno più. Certo. D'altronde, Carla, non c'è più niente di breve termine, di remunerativo in maniera soddisfacente per nessun tipo di risparmiatore, a meno che non si prenda un rischio alto, come per esempio le caratteristiche patrimoniali di una banca. Allora andiamo a spiegare un po' questo fatto, Urcioli, che se una banca magari per un anno ti dà il 2%, dobbiamo andare a fare una verifica su che tipo di banca stiamo parlando. Adesso io non vorrei girare il coltello nella piaga di molti ascoltatori, ma per esempio c'è Banca Marche, la nuova, la Good Bank, naturalmente, che sta facendo, tenta di fare raccolta fra risparmiatori e per esempio ha un conto di deposito molto remunerativo, ma sappiamo bene che storia ha quella banca, così come altri istituti di credito italiani. Non, sì, dico niente di particolarmente scandaloso. Sì, è la verità, non c'è nulla di scandaloso, però già nel nome Nuova Banca Marche, ecco. Si tratta della Good Bank innanzitutto, poi c'è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che ci può far dormire se sono i tranquilli. E c'è un po' un arbitraggio, effettivamente si può parlare di vero e proprio arbitraggio, perché questi prodotti non sono degli strumenti di investimento e al di sotto di determinati importi, 100.000 euro, sono assolutamente sicuri e tranquilli. Quindi è giusto fare verificare la solidità della banca, anche perché poi nell'eventualità in cui ci fossero dei problemi, comunque sia... si ha la certezza di rivedere i propri soldi, ma magari si va attraverso un processo un po' farraginoso, si potrebbe andare attraverso un processo farraginoso, diciamo che però... Adesso non abbiamo grandissima esperienza dell'utilizzo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, non ne vogliamo neanche maturare, perché insomma nel momento in cui dovesse presentarsi un problema tale per cui dovremmo aprire anche quel forziere, allora qua sarebbero cavoli amari per il nostro paese. Però il tema è che quella tutela c'è, però non sfidiamo la sorte. Secondo lei, per evitare, a scongiurare un'ipotesi di questo tipo, cos'è bene fare? Magari ipotizzare di aprire 2 conti di deposito su banche differenti, magari qualcuna che offre un rendimento interessante. Ma la diversificazione del rischio è comunque sempre la regola aurea. Una buona regola. Poi cercherei di non essere allarmista, comunque sia. Non abbiamo sentito nessun correntista, nessun depositante di Banca Marche che si sia lamentato di aver perso i propri soldi. Banca Marche è andata attraverso quella situazione, aveva il conto deposito pure prima. Diciamo che quelli che hanno perso tutto avevano le obbligazioni subordinate, non avevano il conto di deposito. Con il bail-in si è fatto anche un po' di allarmismo, o anche se... Sì, si è fatto allarmismo con il bail-in, però di fatto quattro banche risolte ce l'abbiamo, e prove tecniche di bail-in il nostro paese appunto ne ha volute fare a novembre scorso, tanto per far capire anche cosa potrebbe succedere nel caso una banca più grande abbia la stessa sorte, cosa che non succederà in Italia naturalmente perché abbiamo le spalle ben coperte, però prove tecniche le abbiamo fatte. Abbiamo altri problemi adesso, quelli con la Popolare di Vicenza, dove gli ispettori appunto si stanno divertendo in questi giorni a mettere alla luce come venivano erogati prestiti come al solito appunto in cambio della sottoscrizione contestuale di azioni eccetera, un altro scandalo molto importante, però sul bail-in ancora uno grosso non ne abbiamo avuto e non lo vogliamo neanche avere. Detto questo, c'è Adriano da Napoli che velocemente ci fa l'equivalenza tra yen e euro. Adriano, buongiorno, quanto valgono 100 yen secondo lei? È già stato in Giappone di recente? Buongiorno, no, purtroppo non sono stato in Giappone, però questa equivalenza è stata fatta in un servizio andato in onda su Radio 24 proprio qualche giorno fa e dicevano che valgono circa 200 euro. Allora li devo sconfessare perché hanno sbagliato, adesso Adriano devo andare a vedere chi ha fatto, qual è il collega che ha fatto la... No, può anche essere che ci sbagliamo noi, però sì, mi pare... Non vogliamo fare le maestrine, Debora, mi raccomando. Ma perché ci tocca? Poi sai che ci tocca e quando ecco, ci tirate per i capelli. Proprio stamattina che ci sono gli esami di maturità ci tocca fare pure tutta questa operazione. Allora Adriano, purtroppo io devo dire che non è questa la cifra che risulta a me. Detto questo, siccome lei è un attento e fedele ascoltatore di Radio 24, il libro se lo prende lo stesso, gliene mando uno di cuore così è più contento. Intanto andiamo a sentire cosa succede sulle strade italiane. Cuore e denari. Certo che fare questa associazione stamattina fra conti di deposito italiani e storie giapponesi è stata un'associazione ardita, ma insomma abbiamo fatto pure questa. Nicoletta, noi continuiamo con Manfredi Urcioli, responsabile comunicazione di confrontaconti.it, l'esame, visto che siamo in una giornata di esami, di appunto, esami certo, sui conti di deposito italiani. Allora abbiamo fatto un punto della situazione sulle offerte che ci sono in circolazione in questo momento per qualche banca, addirittura rendimenti che possono arrivare al 2%, ma insomma siamo anche attenti a valutare la tipologia appunto della banca che ci fa questa proposta commerciale. Informiamoci sempre sulla solidità della banca alla quale affidiamo i nostri risparmi e sempre con le dovute cautele fidiamoci naturalmente dell'istituto di credito e, come giustamente sottolineava Manfredi Urcioli, comunque c'è sempre il fondo interbancario di tutela dei depositi che entro un certo limite naturalmente ci garantisce che i soldi ci vengano restituiti. La soglia è sempre quella dei 100.000 euro, però magari non mettiamoli tutti lì, Urcioli. Ricordiamo. Comunque esistono diverse banche con offerte abbastanza simili, quindi non è neanche necessario. No, infatti. Senta, allora, la caratteristica principale del conto di deposito è che per darti un certo interesse, naturalmente tu devi accettare un vincolo, quindi stare fermo lì con quei soldi, non puoi movimentarli a piacere per un tot di tempo, 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi. Cosa succede se voglio svincolare un po' prima o tutta la somma, magari una somma parziale? Bisogna fare attenzione nel momento in cui si sceglie il prodotto, perché non tutti i conti di deposito consentono di svincolare, ad esempio. Addirittura dicono no, oppure li svincolo accettando di non ricevere gli interessi pattuiti inizialmente. Esistono dei conti di deposito vincolati che consentono di svincolare, di solito viene ridotto il tasso riconosciuto in quel caso, mentre ne esistono altri che non consentono proprio di svincolare. Addirittura? Cioè non posso disporre assolutamente del mio denaro? Assolutamente no, lo si sa prima, si firma un contratto. Ah, pensavo che ci fosse comunque eventualmente la penale di non ottenere gli interessi, ma addirittura invece possono proprio dirti... non li danno? Cioè, è indicato chiaramente, indicato chiaramente. Con e poi il lucchetto chiusi. Esistono anche quelli che invece non prevedono il vincolo, come dicevamo prima. Quindi nel caso in cui si fosse molto incerti circa eventuali fabbisogni futuri che dovessero nascere, ad esempio se si stesse per acquistare casa, si potrebbe sempre ricorrere al deposito libero. Certo. Allora, intanto altri ascoltatori ancora che si candidano a rispondere al nostro domandone, adesso li sentiamo molto volentieri, mentre c'è anche chi contesta un po' le nostre considerazioni fatte sul tema del fondo interbancario. Un ascoltatore scrive: credete che abbia soldi per tutti i clienti delle banche eventualmente fallite? No, sarebbe impossibile anche che il fondo interbancario abbia tutte le risorse nel caso in cui fallisca una grande banca italiana, ma questa non è una verità che diciamo noi questa mattina. E cosa no? nota e risaputa. Proprio per questo motivo, appunto, ipotizziamo e speriamo che una circostanza del genere non debba mai verificarsi. Per non parlare poi del fatto che qualche volta, quando si evoca la necessità che debba essere utilizzata la risorsa del fondo interbancario, si mette sempre di mezzo anche Bruxelles, che parla di aiuti di Stato, e quindi anche da loro dobbiamo aspettarci, no, Urcioli, il via libera. Sì, però bisogna anche essere onesti e guardare le cose con un minimo di razionalità. Tutte le banche che hanno avuto problemi non sono ricorse al fondo interbancario in Italia. Non vi è ricorsa la Popolare di Vicenza, non vi è ricorsa Veneto Banca, eccetera, eccetera. Allora, ancora, quindi, perché per i conti correnti, appunto, sono tutti quanti pienamente operativi. Il tema per quelle banche sono gli investimenti, esatto, azioni ed obbligazioni. Bisogna fare molta attenzione. Strumenti non coperti comunque dal fondo interbancario. Allora, chi sentiamo adesso? Vediamo un po'. C'era pronto ad intervenire Riccardo da Como, che salutiamo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, il valore è 84,84, se vuole anche Vabbè. Allora, se lei vuole fare proprio il primo della classe stamattina, cosa le devo dire? Dobbiamo regalare uno, due, tre libri. Grazie Riccardo, prego, che si è stamattina sbizzarrito anche a fare la nostra equivalenza. Allora, Urcioli, che cosa manca da dire ancora sul mondo dei conti di deposito? Diamo qualche dritta ai nostri ascoltatori che vogliono continuare a parcheggiare la propria liquidità, perché sono dei risparmiatori tranquilli, non sono molto soddisfatti inevitabilmente dai rendimenti dei titoli di Stato, che sono azzerati, quindi la cosa più simile al titolo governativo è naturalmente adesso il conto di deposito, e però anche lì non trova rendimenti soddisfacenti. Se ne vuole trovare di soddisfacenti deve andare su banche che hanno delle condizioni patrimoniali un po' più sofferenti, un po' più precarie. E quindi qual è l'ABC per il sottoscrittore di un conto di deposito? L'ABC è informarsi, confrontare e verificare anche quello che stiamo dicendo sulla solidità delle banche, sulla loro necessità, sul loro fabbisogno di liquidità. Non è così vero, ci sono anche delle banche molto solide che offrono dei tassi interessanti, magari sono banche non molto note al grande pubblico, sono delle banche che hanno modelli di business più aggressivi rispetto ad altre, magari perché per esempio la banca IFIS, che lei che ci raccontava prima, è una banca specializzata anche nel factoring, esatto, ed è una banca che quindi può permettersi, per modello di business, di remunerare di più rispetto ad altre, così come IBL o tante altre. Quindi bisogna informarsi è possibile, esiste la tecnologia, esiste internet, anche sul nostro sito ad esempio ci sono tutte le informazioni sulla solidità patrimoniale delle banche, ed inoltre è bene anche confrontare, verificare le varie simulazioni, si possono avere degli interessi diversi a fronte di durate diverse, a fronte di importi diversi, e dulcis in fundo, informandosi magari si scopre anche che ogni tanto ci sono delle promozioni particolari, valide solo per un determinato periodo di tempo, che possono consentire di accedere a dei tassi ancora un pochino più alti, esatto, di mercato, è vero. Quindi adesso non vorrei chiamarle le offerte civetta, perché mi sembra anche di essere poco carina nei confronti appunto del sistema bancario, quello che pensano opera delle civette ancora correttamente, naturalmente. Detto questo, però sì, comunque è vero, è ovvio che si fa anche quel tipo di concorrenza là per accaparrarsi clientela nuova, e questo è uno strumento buono per poi magari fidelizzare un cliente e proporgli eventualmente dell'altro. Allora, noi intanto stiamo arrivando verso la conclusione, ci sono altre cose interessanti da dirci a proposito dei monitoraggi che fate fra la clientela dell'industria bancaria? In questo momento voi osservate anche il conto corrente tradizionale, no? Sì. Urcioli, cosa ci dice questo mondo bancario, che in questo momento è letteralmente sul lotto volante qua a Piazza Affari? Noi ne vediamo ogni giorno di tutti i colori, rosso soprattutto, perché perdono tanto i titoli in borsa, poi recuperano, insomma. Che cos'altro possiamo dire ai nostri ascoltatori sulla solidità del nostro sistema? Insomma, cercano le offerte adesso, che tipo di cliente va a caccia delle vostre comparazioni? Sono clienti soprattutto del nord Italia, quelli magari un po' più avvezzi ad informarsi, quelli un po' più giovani solitamente, quelli che utilizzano il comparatore anche per i conti correnti, e sono degli utenti che utilizzano, privilegiano i canali online. Oramai tutte le banche hanno un'offerta online piuttosto competitiva, certo. Esistono poi dei prodotti che magari remunerano anche, dei conti correnti che riescono anche a remunerare qualcosa. Di solito solo in caso di giacenze piuttosto elevate, certo. Però esistono anche... Sì, perché c'è anche qualche banca che addirittura magari qualche anno fa faceva dei conti di deposito con rendimenti molto allettanti, che invece adesso sta addirittura cancellando questa offerta e remunera direttamente la giacenza sul conto corrente, quindi ha eliminato, come dire, proprio il vocabolo, sì, conto di deposito. Oppure ha associato dei vincoli al conto corrente, cioè, ecco, esiste la, esatto, possibilità di vincolare somme nel conto corrente per remunerarle di più. Grazie a Manfredi Urcioli, confrontaconti.it, buona giornata. Nicoletta, torniamo domani, so che tu rimani, sì, là. Sì, mi hanno invitato a stare qua e ho pensato che resto. Buona giornata, domani. A domani.